Noi abbiamo deciso di partecipare appunto come vaghe a Resistenza Cirenaica perché poi in questi anni abbiamo più volte raccontato le storie, i nomi che sono dedicati alle strade del Rione e quindi in questo caso questa vicenda è abbastanza particolare. La via si chiamava Via Sabatucci fino appunto al numero civico del dormitorio pubblico, poi è stata cambiata l'ultima parte, l'ultimo tratto, quello chiuso, è stato dedicato a Don Franco Serrazzanetti che è un prete di strada. A quel punto la nipote di Sabatucci, che è una signora che si dà da fare appunto per ricordare le memorie della Resistenza in vari momenti, ha lanciato una proposta perché il centro di prima accoglienza per adulti, che era già dedicato a Pino Beltrame, il responsabile della sanità partigiana, insomma quello dell'infermeria che aveva costituito l'infermeria partigiana, venisse dedicato anche alla figura di Sabatucci, anche perché molto di frequente il dormitorio pubblico è sempre stato chiamato il Sabatucci, insomma. A quel punto questa proposta è stata accettata e oggi ci sarà l'intitolazione, verrà scoperto un murales dentro la sala del centro diurno e poi noi come Vaga Resistenza in Cirenaica abbiamo il compito di raccontare la storia di Sabatucci, una storia molto particolare, insomma se quella di Beltrame era stata una resistenza senza imbracciare quasi mai le armi, quella di Sabatucci per certi aspetti non dico che stia all'opposto, ma è una scelta dove l'azione è stata la caratteristica della sua partecipazione alla resistenza. Sabatucci era un ragazzo bolognese del 1921, uno dei pochi partigiani che ha studiato, nel senso che i suoi genitori fecero sacrifici enormi per mandarlo al liceo, poi dopo seguì il padre a Roma e si iscrisse alla facoltà di magistero. Fu arruolato nell'esercito con grado di sottotenente e fu mandato a combattere in Jugoslavia. All'8 settembre, dopo l'armistizio, i tedeschi diventarono immediatamente nemici degli italiani. Sabatucci, che era a Dubrovnik in quel momento, decise di non consegnare le armi e dopo essere stato arrestato dai tedeschi riuscì a fuggire dal treno che lo stava portando in Germania in un campo di concentramento e per 2 anni si aggregò ai partigiani jugoslavi e combatté appunto in Jugoslavia. Nell'autunno del 1943 arrivò di nuovo a Bologna e rimase qualche mese in clandestinità in città, poi fu mandato assieme ad altri 100 partigiani bolognesi a combattere in Veneto, nella zona delle Prealpi bellunesi. Qui in poco tempo divenne comandante, anche per la sua esperienza militare, della brigata Garibaldi Mazzini. In questo contesto fu protagonista assieme a altri 7 uomini di un'azione molto pericolosa a un ponte ferroviario in provincia di Treviso, dove un ponte che era presidiato da soldati, erano soldati cecoslovacchi alleati dell'esercito nazista, vennero disarmati i soldati, poi il ponte fu fatto saltare. Tenete conto che gli alleati in diversi momenti cercarono appunto di colpire questo avamposto tedesco molto importante e mai vi erano riusciti. Quindi in seguito a questa azione Sabatucci divenne comandante di battaglione e con questa responsabilità gestì nel novembre del 1944 l'opposizione a un grandissimo rastrellamento, riuscendo a mettere in salvo 800 partigiani che erano stati circondati da tedeschi e nazisti. Per queste sue capacità militari venne nominato nelle settimane successive comandante della brigata Garibaldi di Padova, con il compito di riorganizzare tutte le brigate del Veneto. In quei momenti scrisse anche una specie di manuale del comportamento dei partigiani, non che fosse ossessionato, però teneva molto a un comportamento di disciplina da parte dei combattenti, era molto preoccupato dei frequenti tradimenti che avvenivano nelle file della resistenza e lui sosteneva che un partigiano deve essere convinto politicamente fino in fondo perché è l'unico modo appunto per resistere anche a torture o anche prima delle torture rischiare di non passare dall'altra parte. Questa sua preoccupazione era abbastanza sensata, nel senso che un suo aiutante di brigata fu preso dalla famigerata banda Carità, che era una banda di torturatori fascisti e padovani, in qualche modo fu costretto a riferire una serie di dati legati al mondo della resistenza. Ma oltre a questo organizzò un appuntamento con Sabatucci e altri 2 comandanti di brigate partigiane padovane per fargli la trappola con diciamo, i fascisti che aspettavano i tre partigiani nascosti. Quando Sabatucci si rese conto della cosa, decise di sacrificare la sua vita per salvare gli altri due suoi compagni, si buttò di corsa contro i fascisti nazisti che lo uccisero a colpi di mitra, permettendo però agli altri due suoi compagni di salvarsi e diventare successivamente responsabili della brigata che lui prima dirigeva. Questo agguato è stato il 19 dicembre, quindi siamo alla vigilia, diciamo, dell'anniversario. Il suo ricordo avviene appunto alla vigilia dell'anniversario della sua uccisione. Dei tipografi legati a Resistenza che lavoravano dentro il Gazzettino era il giornale di regime, insomma era in mano ai gerarchi fascisti, riuscirono il giorno 20 dicembre a inserire due necrologi che ricordavano la figura di Sabatucci, chiamandolo l'eroe della nuova Italia, con l'impegno che la sua morte sarebbe stata vendicata. Questo necrologio creò molto frambusto, tutti i giornali, per le copie del giornale furono ritirate, ma questo, diciamo, era un po' il segno della ramificazione della presenza partigiana anche in territorio nemico, se così lo possiamo definire.